24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma. Uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio. E lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera. Per il presidenzialismo e cancellierato alla tedesca. Il problema alla Sartori. E vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese. I bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo elettori, il bagno alla turca. Allora però noi abbiamo scritto una canzone che, come dire, fa parte del nostro background culturale, tuo e nostro, anni 80, Eder Parisi, il trio Medusa, però è Quirinale, Renzi. La facciamo sentire la parte che ti riguarda, ok? Musica, non so se la senti da qua, vai. Matteo Renzi sorride con questa consensi, stai sereno, twitta, ma poi fai la fine di Letta. Italiani e minoranza del PD, con Verdini popolari e NCD. Bravo ragazzo, sereno, sereno sto cazzo. E il trio Medusa, accolto così sotto Palazzo Chigi, un Matteo Renzi, niente, non ci sono baci, è morto tutto. Ah, ecco. Va bene, almeno mi accogli con un po' di allegria, caro Calvero Lauricella, qui già la tosse. C'è tutto, che dobbiamo fare? Nevica, incredibile, in inverno nevica, cari italiani. È incredibile questa cosa, ma in inverno nevica. Fa freddino, sì, in inverno fa freddino. The big snow, mamma mia, ma cosa dovrebbero fare in Canada, in Russia, in Svezia? Come dovrebbero chiamare? Noi chiamiamo the big snow, 10 centimetri di neve, 20 centimetri. A Milano nevica, sono arrivato, c'erano i transessuali del Monumentale passando questa mattina, che erano un po' infreddoliti, e c'è un centimetro di neve, insomma. E però sono arrivato con calma, ce l'abbiamo fatta, i giornali sono arrivati, sono qua, perché temo sempre con la neve che si blocchi tutto Milano con mezzo centimetro di neve. E invece andiamo avanti, è la 92esima settimana decisiva che si chiude oggi. Ah, le province sono lì, la riforma elettorale non c'è, ma la 93esima, guardate che potrebbe portare buone sorprese. Intanto voglio salutare Lorenzo Nespoli in redazione, il nostro Carmelo Lauricella, come detto, in regia. Ma l'Alpino non è che lavora la sera, proprio è ammalato, c'ha la febbre. C'ha la febbre. Allora apriamo il Parlamento, dai. Adesso vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi. Grazie. Parlamento. Eccoci qui, dai. Saluto il nostro grande amico Vincino. Dove sei? A Roma, a Mondello, a Palermo? Roma. Nevica? Piove. Da 3 giorni, 5 giorni, la grande pioggia. E Marino che dice? Lasciate le macchine a casa? No. No, Marino, no. Devo dire, non lo sento da qualche giorno. Perché ti chiama personalmente? No, ma insomma... Ma l'hai visto? A me è vero che è zoppo, cioè si è rotto... L'ha visto qualcuno con il... perché si è rotto un ginocchio quando è andato a Boston. Ah, è caduto dall'aereo come Mugabe. No, non lo so. In rete non l'ho visto. No, pare che sia caduto in una buca. Ma non l'hai letto, scusa, è il tuo sindaco a Boston. Il mio sindaco è Orlando. Allora, diciamo questa cosa qua. Ah, il tuo sindaco è Orlando. Il mio sindaco è Orlando. Orlando. Quello che è come dire, no. L'amico più sincero di Mattarella è il mio sindaco. Orlando. Vabbè, allora saluto colui che ha come sindaco Ignazio Marino, e non lo disconoscerà sicuramente, Alessandro Giglioli. Buongiorno. Buongiorno, ma che mi fai passare per l'ufficio stampa di Marino adesso? No, il tuo sindaco. Oh, ma sei di Roma, ma non è il tuo sindaco, non è un'offesa. Ma sei tu di Roma, io ho vissuto 40 anni a Milano, mi sento così. Ho capito, ma mi vergognate. Un piede qua, un piede là, cioè, con tutti i migranti. Vabbè, no? Vincino dice, no, il mio sindaco è Orlando. Tu vivi a Roma, no, ma dici, no, il mio sindaco... Il mio sindaco è quello di Capraia Isola, dove vado l'estate... Ah, hai capito, a Capraia, hai capito. Ma Alessandro Girone ha scritto un libro, mi è arrivato un libro a casa. Che è scritto? A casa mi è arrivato. Che cosa a è scritto? A casa mi è arrivato, che sto prendendo il mio editore. Cioè, scherzo, dai, ce l'ho a casa, mi è arrivato qua. Mi è arrivato ah, qua. Meno male. Che libro hai scritto? Ho scritto, no, abbiamo scritto. Abbiamo, è vero, è vero. Io sono coautore. È vero, non ce la fai, non ce la fai da solo, è vero. Da solo no, figurati, io ho messo le virgole. Allora, Guido Scorza è un grande giurista che si occupa di internet, di diritti della rete. Sì, sì. E allora abbiamo scritto insieme questo libro che si chiama Meglio se taci, e che si occupa di... Perché tutti dicono l'Italia è al 49esimo posto, no? Delle classifiche... Della libertà di stampa. E nessuno si è chiesto perché. Ma non sono un po'... Io ho sempre sospetto che siano un po' minchiate queste, però tu mi direi... Concordo, Vincino concorda. Ero sicuro che Vincino concorda, però sono minchiate di organizzazioni internazionali, ce la inventiamo noi, sono... Sì. Organizzazione, se tanto più d'una, no? Si va da Reporter Senza Frontiere ad altre, che più o meno chi ci mette 46 mesi, e sono con permesso, mi rendo conto che ci fa poco piacere sentircelo dire, quindi tendiamo pianamente a dire che sono minchiate. No. E pur tuttavia esistono in questo paese invece limiti piuttosto significativi rispetto ad altri, poi che sono di molto peggio, si intende, ma rispetto ad altri in Nord Europa, nel continente americano, abbiamo limiti molto significativi alla libertà di espressione in questo paese. Bene. E allora avete scritto questo libro. Parliamo poco perché ci dà fastidio parlare. No, infatti vedi che siamo qua alle 6:35 minuti. Ma un giorno magari ti invito a parlare approfonditamente di questo libro, del libro nel senso della libertà di stampa. Con piacere, perché a quest'ora è il massimo che sono riuscito a dire quello che ho detto. Esatto. Non saprei veramente andare. Vabbè, comunque qui invece che succede? C'è Re Oma, altro che la cavalcata, Vincino. Renzi, ormai lo possiamo dire, è il re assoluto d'Italia. Infatti ha visto un re. Se la riscusa? Ha visto un re. Ah, beh, sì. È proprio il re, Vincino. Un re che piangeva seduto. Cioè, sai l'ultima che fa? Si prende i senatori di Scelta Civica. Pare che oggi entrino nel PD. E poi tra cui Della Vedova, che è amico mio, ma che è un disastro politicamente, perché, come dire, lui ha tutti i fallimenti politici se ne è presi lui. Oggi te la prendi con Benedetto Della Vedova. Ma io gli voglio bene a Benedetto. È solo che, ma tra l'altro è sottosegretario agli esteri, stai attento. Ma io l'ho incontrato poco fa all'Equirinaria della Piazza Atlantico, quando c'erano le Quirinarie quelle vere, no? No, ma lui ci vogliamo bene, però sbaglia tutto e ci possiamo fare. Ma poveretto, ma cosa ne sai tu di cosa fa politica della Vedova, dai? Ma t'assicuro, quando finì fece la sua cosa, figli di Italia, come si chiamava quella là? Fortunati te, fratelli d'Italia. No, com'era? Ma non lo so, Giglioli, aiutaci. Futuro e libertà, Vincino. Non mi parla mai. Vincino, aspetta. Vincino, futuro e libertà. Futuro e libertà. Futuro e libertà. No, adesso sono nomi che sì, che passano il tempo, che, come dire, no. È una cosa. E che c'è? E lui ha fatto, Fini ha fatto Futuro e Libertà e Della Vedova è entrato in Futuro e Libertà. È entrato in Futuro e Libertà. Poi ne aveva fatte altre prima, aveva fatto, non so, un partito liberale d'Italia. Ho capito, ma adesso è riuscito, ad avere la poltrona. Ha fatto scelte il primo ad andare con Monti. Infatti appena arriva con Monti, a paf, l'altro. Adesso forse vale il PD. Ho paura per il PD. Comunque il tema politico è questo, che Renzi è il re, e quindi, caro Giglioli, sai che ha fatto? Adesso ha preso tutto, ha preso il banco, ha vinto tutto a poker. Noi siamo repubblicani. Si prende i responsabili, un po' di Scelta Civica, un po' di ex grillini, un po' di qui, un po' di sperduti, un po' di quelli che transeano, no, da una parte all'altra. Animule, vagule, blandule. Esatto. E adesso che gli ha fatto a Berlusconi? Gli ha messo pure la l'aumento per pagare le frequenze TV di 50 milioni e Mediaset. Niente, praticamente. Ma come 50 milioni per Mediaset? Ma come per Mediaset in questo momento? 50 milioni. Ma ti fai in una sera di pubblicità, dai. Dici? Ma sì, come dire, una cosa, ma anche per la Rai, no? Che pure là, sì, niente, certo. Perché tanto paghiamo noi per la Rai, chi se ne frega. Vende impacchi un giorno sì, un giorno no. Comunque, Giglioli, la questione è questa politica. Ormai comanda, fa quello che vuole, questa è la verità, o no? Sì, abbastanza, sì. Vuoi una cosa più approfondita? Sì. Se vuoi te la dico, cioè è riuscito a dividere fondamentalmente il campo presunto avverso, ha creato una forza centripeta attorno a sé straordinaria, bisogna dirlo, io non sono un ammiratore di Renzi, poi, ma lo dico perché poi qualcuno ti telefona e ti dice sì, mezz'ora che dite bene, allora, di Renzi. Io sono all'opposizione di questo governo, ci ho detto, siccome negare la realtà sarebbe piuttosto fuori luogo, non c'è dubbio che questo è il momento in cui Renzi, almeno sul breve termine, perché Mattarella un po' gli romperà le palle, secondo me. Detto questo, sul breve termine sembra non avere alcun contraltare serio, perché abbiamo un'opposizione, quella del Movimento 5 Stelle, che è in crisi, sì, anche qua ci arriveranno, sì, immagino, insulte go go, però è in crisi con tutte le buone idee che può avere, e la sinistra del PD si è fatta... credo di aver vinto, in realtà ha perso si è fatta inglobare da Renzi, il risultato è l'imperatore, è l'imperatore, è l'imperatore, anche perché posso aggiungere solo una piccolissima, sì, cosa, perché una buona parte di Forza Italia, insomma, Forza Italia era nata fondamentalmente per difendere le aziende del Cavaliere, mia opinione personale, ma piuttosto diciamo dimostrata dai fatti, e adesso ci si rende conto che andare contro Renzi in modo frontale, così come vorrebbe, non paga molto. E quindi il paradosso della storia, il contrappasso storico, è che un partito nato per difendere le aziende adesso è dilaniato, perché metà di questo partito, la parte diciamo berlusconiani, lealisti, si rendono conto che non possono andare di fatto a fare l'opposizione, quella i cui consensi crescono invece, che è quella, chiamiamola così, anti-establishment di Salvini. Vabbè, Vincino, che volevi dirci? Che si frega lui Renzi stesso, perché fa una minchiata dopo l'altra. Questo fatto qua che tutta la è troppo ingordo, No, allora, uno, che bisogno c'era di dare di appoggiare la Merkel contro Tsipras? No, a noi ma Tsipras che c'entra? Sta simpatica. No, ma lui fa quell'establishment lì. No, su Tsipras sta simpatico, adesso poi ne devo dire una veramente forte tra poco, però ci arriviamo con calma, dimmi più. Vincino, no, perché Renzi va a sbattere secondo te? Ma perché fa una minchiata dopo l'altra? Ma no, fatto qua, si sente un cazzo e mezzo, si è allargato troppo e cosa, per tutto la bottega quella là dei senatori qua è sempre stata aperta, non è che l'aveva inventata Berlusconi, l'aveva inventato molto tempo prima, e però c'è un passaggio pazzesco di qua e di là, no? Sì. Vincino, Scilipoti sul Fatto Quotidiano oggi dice mi chieda scusa, ha ragione, l'unico vero responsabile che c'era era quello là, e poi allora perché va a sbattere, non ho capito perché va, perché senza, come dire, Renzi era uno che doveva essere un poco contenuto, ma come contenuto Renzi? Sì, perché lui ha questa tendenza qua e fa, cioè, una cosa giusta vera l'ha fatta, oltre gli 80 euro diciamo, per quelli che l'hanno presi, non sono io, l'ha fatta, tu hai sbagliato tutto e tu hai scritto un libro, La Cavalcata. Senti un po', ma com'è che si sente? Prima hai detto si sente un cazzo e mezzo. Così è, questa è la papale, il linguaggio popolare. Giglioli, no? Così si parla alla vucciria, così a Ballarò, così a Ballarò. Vicino ha sintetizzato tanti editoriali, questa mezza frase. Sì, effettivamente. No, ma è vero, lui si sentiva così, si sente così da quando è nato, probabilmente. Quando l'ho visto io nel 2010, di sicuro si è sempre sentito così. Adesso ha qualche motivo concreto di sentirsi così, perché ha scavato scavato il PD, ha fatto fuori Letta, ha fatto Presidente della Repubblica, non ha un'opposizione. È questo, fa decide tutto, fa il bello e il cattivo tempo. Poi, fa anche nevicare, in questo momento fa anche nevicare a Milano, Renzi. Sì, siamo negli anni 50 paro paro, c'è di nuovo il quartetto Cetra, che ne so. Vabbè, intanto però vi faccio sentire Rosi Bindi, sapete che Berlusconi si è avvicinata con una grande galanteria, gli ha detto non sapevo che un uomo, una donna potesse commuoversi così come lei. Vabbè, Rosi Bindi a Porta a Porta. Berlusconi le ha detto, non mi aspettavo che un uomo si commuovesse così. Allora, quello che io mi sono chiesta è dove lei abbia trovato la forza per sorridere, per accennare un sorriso. E rifiutare il baciamano. Io non mi ci sporco. Cioè, qualcuno mi ha detto oggi, ma perché non gli hai dato un pugno? E non mi ci sporco con Berlusconi. Non mi ci sporco, Vincino. Vabbè, quella, anche quella è una cosa di quanti anni fa. Sì. Cioè, però un revival che continua. Un revival. Senti un po', Vincino, devo andare in pubblicità. E questo è il momento in cui prima della pubblicità, o meglio, del traffico, ti chiedo sempre di darmi una perla sul Movimento 5 Stelle. Così io poi la twitto durante il traffico e tu passi una bella giornata. Sai che Beppe Grillo ha cancellato sette serate su 8. Come dire, era stato pure lui ingordo, voleva farsi tutto il mondo, ma il mondo, come dire, va da un'altra parte assolutamente, insomma, non questa è un po' morbida, però è un po' morbida, che cosa vuoi, dai, subito dai, poveretti già sono messi proprio un disastro loro di per sé, non è che non si può infierire poi dopo, no, va bene, va bene allora andiamo al traffico, dai. 24 mattino. Voglio dire che il signor Milan è bravissimo a leggere i giornali ed è un piacere la mattina ascoltarlo. Auguri e buone cose. Buongiorno Milan, di nuovo. Io ascolto la tua trasmissione e mi incazzo sempre di più. Senti qua, ma non capisco perché è uscita fuori la Fornero e ci ha distrutto i nostri diritti acquisiti della pensione. Perché non può nascere un'altra Fornero per distruggere i diritti acquisiti di questi Pulita, stronzi politici. Il fatto del Nazareno è rotto? No, ci ha rotto il cazzo. Smettiamola di fare i buonisti con questi dell'ISIS, perché questi ci tagliano la gola. Chiaro Milan, è ora che te la finisci, ma l'hanno ammazzati, li vogliono impiccare, hanno impiccato, tricchete, fracchete. Che faccia te, no? Se sei tanto bravo. Tu non dai notizie. Dai stronzate. Pronto? Pronto? Che parlo con Milan? Sì. Vorrei sapere chi è il Presidente della Repubblica, nel quale sarcofago l'abbiamo tirato fuori. Mattarella, la Fardella, ma come si chiama questo? Mattarella, fate i bravi, fate, come vedi Giglioli, alcuni sono a favore di come leggo le notizie, altri no, altri vabbè. Ma più che altro vedo che hai le groupies che sono quasi tutte signore. Sì. E così dalla voce non mi sembra più. Cosa vuoi dire? Vuoi criticare? Invece i maschi sono tutti, ce l'hanno tutti con te. Vuoi criticare le mie zie ascoltatrici? Faccio una riflessione. È solo groupies di una certa età. Allora, io dico questo non di Tsipras, della Grecia. Ho letto oggi Federico Fubini su Repubblica, nel cui articolo si legge che la Grecia, ma cosa che si sapeva, ma leggerlo lì spiattellato, vabbè, hanno assunto dipendenti pubblici che manco altro che a Palermo, Vincino. Altro che a Palermo, cioè altro che in Italia. Hanno per anni truccato i conti e si sapeva, perché era considerato antipatriottico per chi lavorava all'Istat greco dare i risultati ufficiali, per cui per anni hanno fatto il rapporto 6% deficit PIL, dicevano, ma hanno scoperto che era del 15% e adesso dovremmo dare anche un solo centesimo per salvare la Grecia? Ma io vado a baciare in bocca la Merkel! Vado a baciare in bocca la Merkel, va bene? Hanno fatto le stesse cose che abbiamo fatto noi, più o meno, dai. Cosa dici? Se uno fa così, è giusto che affondi. Sì, pure noi, basta. Uno dice che in pensione vanno a 45 anni. Io c'ho un medico che è andato in pensione a 32 anni. E infatti con i conti pubblici come siamo messi? Siamo col secondo debito pubblico. Siamo messi meglio, però abbiamo il secondo debito pubblico europeo dopo la Grecia. Ma non è questione di Tsipras o non Tsipras. Cioè, Tsipras è, peraltro, è nulla responsabile di questa cosa. Però, io volevo parlare del Papa, però del Papa che dice: non picchiate i figli in faccia perché si umiliano. Però al culetto va bene, cinghiate al culetto. È una cosa, guarda. No, dice, ma che cinghiate! Si sparano, non abbiamo fatto altro nella storia di spararsi ai cristiani. Ho tanti islamici là e questi si sparano tra Ucraina e tra cristiani. Vabbè, Giglioli, vincere così, metti ordine tu. Cosa vuoi dire di Tsipras? Cioè, no, beh, un po' l'hai già detto tu, perché sei uomo corretto, cioè tutti quelli che hanno fatto quelle porcherie lì sono esattamente i governi che voleva la Merkel, cioè a un certo punto, sì, sono i governi alleati della Merkel, tutti i governi prima del PASOK, poi... Però non credo che la Merkel volesse gente che truccava i conti, no? No, che la Merkel, non la Merkel, insomma... una certa parte di istituzioni europee abbiano voluto includere la Grecia nell'area euro, pur sapendo che non aveva gli strumenti perché gli conveniva includerla, questo è storia dell'economia, sì, è storia, sì, della gente. Dopodiché... Però non penso che sapessero che truccavano i conti, dichiaravano le robe antipatriottiche. Non abbiamo elementi per dirlo, certo. Tuttavia che la Grecia non avesse gli strumenti per far parte della moneta unica, non è che lo dicevano solo quattro economisti... Ho capito, ma adesso vai a convinci un tedesco qualsiasi che bisogna sborsare dei soldi per salvare la Grecia. L'alternativa è che probabilmente o diventano una colonia della Russia di Putin in Occidente, oppure esplodono con risultati che... sono più dannosi di quelli alternativi. Cioè, ho capito. Si parla tanto di pragmatismo, poi dopo quando ci sta sulle balle il pragmatismo non lo quindi Vincino, traduciamo così: tu pensi al Papa, ma devi tirare fuori dei soldi per la Grecia. Quanto pensi di tirare fuori? Scusami, per una mano i soldi li abbiamo già dati, per cui possiamo ma non è finita, ma già abbiamo dati 20-30 miliardi, è 40 l'Italia, 40. Però allora Putin per ora non c'ha un euro, con il prezzo del petrolio così a 40 euro è un disastro, non c'ha un euro. E per questo, come dire, non è in grado di dare soldi a nessuno, secondo me. Guarda che la Grecia è piccolissima, le sue anche il famoso debito pubblico greco è di 300 miliardi, non è di 2.000, non perché in proporzione è più grosso, voglio dire, ma è poca cosa dal punto di vista economico, vale per la Russia, può valere come per noi, che ne so, la provincia, la Valseriana. Sì, capito come ti snocciola dati alle 6.50, ovviamente che io non controllo minimamente, cioè mi fido di Giglioli. Li dico a quest'ora così. È la Bibbia. Sono più o meno azzeccati. Vabbè, ma Vincino, ma allora che ti dà fastidio del Papa, invece? Parliamo del Papa. Perché? Perché il Papa? Questa è perché ogni giorno ne dice una o peggio dell'altra, no? È come dire, no? Questa qua degli schiaffi ai figli è pazzesca, non è che cioè già il pugno per la mamma era una cosa al di là del bene e del male, ma questa degli schiaffi non in faccia, ma come dire, io non ho mai dato uno schiaffo né, assolutamente. Ma io sì, la sculacciata, sì, dai, su. Ma tua figlia è in casa? Due figlie, tutte sì, e due in casa. Sono in casa in questo momento. Tutte e due in casa. Le abbiamo svegliate, una volta l'abbiamo svegliata. Una l'abbiamo svegliata, l'altra no. Se vuoi passarcela, non... No, sta nella sua stanza, no, già è arrabbiata. Una volta ce l'ha passata, da quel momento fa un filtro totale. Difendere i minori da lì non mi è un dovere. Ma no, ma cosa stai dicendo? Ma a parte che non sono minori, credo. Quanti anni hanno? Una 28 e l'altra 23. Ma sono minori, altro che Ruby, voglio dire, sono super, super maggiorenni. Vabbè, però Vincino, allora vi faccio sentire Maria Elena Boschi. Non c'è mai stato nessun accordo sul nome del Presidente della Repubblica con Forza Italia, e credo di averlo detto e che il PD lo abbia detto da un anno a questa parte. Oggi sono le P quando è stato chiesto. L'accordo riguardava solo le riforme costituzionali e la legge elettorale. Però anche la S, non si è mai parlato di Quirinale, quindi nessun accordo è stato rotto. Beh, fantastico. Ha una voce bellissima. Mamma mia, ragazzi. Bellissima. Veramente non indifferente. E vabbè, io qui vi devo salutare. Che dobbiamo fare, Vincino? Vuoi lasciarci con una perla? Vincino? No, che cioè, come dire, essersi con una perla. Si pagano. Ma tu che sei riuscito a leggere i bambini di stamattina, a che ora ti svegli tu? Alle 5. No, ieri avevo Gentiloni, sai che gliel'ho chiesto a Gentiloni, ma lei da giornalista avrebbe pubblicato le vignette di Charlie Hebdo? E lui ha detto, io sì. Ma lui mi ha pubblicato cose terribili. Ma infatti, guarda, ho capito. Da direttore di Nuova Ecologia, assolutamente. Lui ha detto io sì. Ne sono convinto. Va bene, sei contento allora. Va bene. E allora vi saluto. Buon fine settimana. Qua nevica. Ciao ragazzi. Alessandro. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Sono le 7:19 minuti. Vi informo di una cosa, cari ascoltatori. È inverno. E d'inverno nevica. Cioè, non è che big snow. No, è inverno. Oh, è inverno. È in Canada che fanno? In Russia che fanno? In Svezia che fanno? Non lo so, si sparano colpi in testa. È inverno, 10 centimetri di neve possono capitare, eh? Allora, ci scrive un ascoltatore: mentre nevica ad Agrigento piovono gettoni di presenza. Perché è un veggente. Noi parleremo proprio di Agrigento, caro ascoltatore, della vicenda. E non solo di Agrigento, oggi Repubblica, tra poco lo vedremo, scrive che quella delle commissioni dei comuni è la nuova frontiera, pare, del gettone facile. Si fanno commissioni, si convocano le commissioni per parlare della qualunque, con magari riunioni di 5 minuti, tanto il gettone vale. Vabbè, parleremo di questo, ma avremo anche il sindaco di Verona, Flavio Tosi, come annunciato ieri, vuole fare il registro per le unioni civili, con tanto di sdegno da parte della Lega. E parleremo con lui alle 8:45. Ora i giornali, però. In questo venerdì 6 febbraio la riforma elettorale non c'è, le province ci sono, la 92esima settimana decisiva è chiusa, la 93esima alle porte. E tutti i giornali aprono sulla Grecia, gelo tra Atene e Berlino, i bond balzano fino al 18%, questa è l'apertura del Sole 24 Ore. Mentre per il Corriere della Sera, Atene resta isolata, tempi stretti. Repubblica, muro europeo dell'Unione Europea sulla Grecia. Tsipras, basta ricatti, Atene scende in piazza. Per il Messaggero, l'Europa lascia sola la Grecia. La Stampa, la Germania blocca Tsipras, deve trattare con la Troica. Su Avvenire c'è un'intervista al ministro dell'economia Padoan che dice: capisco Atene, ma l'Unione Europea sta cambiando. Mentre la politica, per il Fatto Quotidiano, gli scilipoti di Renzi sono i responsabili. Libero invece amplia l'articolo di ieri di Repubblica, lo mette in prima pagina: regione a corruzione speciale, in Sicilia la mazzetta è normale. Mentre il giornale: Renzi scaglia i PM contro gli italiani, questo è il titolo sull'anticorruzione. Atene chiama e torna sul Manifesto la vicenda greca che tra poco vedremo. Ma voglio partire da altre notizie, una l'ho trovata solo su Repubblica, eppure una notizia che fece molto scalpore qualche tempo fa. Ricordate l'orango di Calderoli riferito alla Chienghe ministro? Ebbene, sappiate che la Giunta del Senato ha deciso a maggioranza, solo il Movimento 5 Stelle aveva detto Calderoli va processato per queste parole, invece il Senato ha deciso che non è imputabile Calderoli. Cécile Kyenge ha vissuto con sorpresa il razzismo di cui è stata oggetto durante la sua esperienza di ministro. È sorpresa e delusa ora che la politica l'ha lasciata sola. Ora che in giunta per le immunità del Senato, la maggioranza ha deciso che la frase «quando vedo la Kyenge non posso non pensare a un orango» non è istigazione all'odio razziale. Non se lo dice il vicepresidente del Senato, Calderoli. Non lo è per i deputati di Forza Italia, NCD, Lega, Autonomie, PD, che in commissione hanno preso la parola per spiegare che Calderoli non è perseguibile, che le sue parole in quanto politico sono insindacabili. Capito? Se lo dice un politico è insindacabile dare dell'orango alla King. Che nel suo partito ci sono persone di colore e che poi è tanto bravo a presiedere l'aula. E quindi per questi motivi, gli unici a protestare sono stati gli esponenti del Movimento 5 Stelle rimasti inascoltati, Calderoli non sarà perseguibile. Ma cosa dice la Chieng intervistata da Annalisa Cuzzocrea a pagina 15 di Repubblica? Sono sorpresa. Poi triste. Ma non per me, vorrei uscire da questa logica. Non stiamo valutando Calderoli come persona, io lui l'ho perdonato. Quello che bisogna capire è se queste parole possano essere usate in un dibattito politico normale o siano semplicemente espressioni razziste. Comunque, se poi quelli del PD l'abbiano fatto, del mio partito, con calcoli elettorali, troverei la cosa ancora più grave. Io comunque vado avanti, ora dovrà esprimersi l'aula, perché questa era la giunta, e spero in aula che questo sia stato solo un incidente di percorso. Se una persona che rappresenta le istituzioni può insultare chiunque, mi chiedo chi protegge i deboli in questo paese. Comunque mi sento abbandonata, sì, e anche dal PD, mi aspettavo più da tutti. Così la Chieng intervistata da Repubblica, Calderoli dice questo, la giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato non è perseguibile per avergli dato dell'orango. Oh, a proposito di insulti razzisti, ma sapete che ha combinato il presidente dell'Argentina, Kirchner? Ha fatto un tweet, io non so lo spagnolo, ma il concetto è questo, si è rivolta ai cinesi, la presidente dell'Argentina, come scrive Libero, praticamente così, vengono qui perché vogliono il liso e il petrolio. Cioè, proprio trovate il tweet di Cristina Kirchner. Vengono qui per el alof e il petrolio. Cioè, non... ma porca miseria, ma... Vabbè, ovviamente rabbia cinese. Vogliono il liso e il petrolio, la gaffa della Kirchner contro i cinesi. Pechino furiosa, le facciamo la carità e lei ci sfotte. Vabbè, succede questo. Vabbè, andiamo a vedere una cosa un po' più importante di un tweet della Kirchner, e cioè... il dossier dell'anticorruzione sull'Expo. Oggi il Corriere della Sera mette questa notizia in prima pagina, l'unico quotidiano che ha questa notizia. Expo, Fiorenza Sarzanini, pagina 16, gestione del catering, servizi di vigilanza, allestimento dei padiglioni, lavori di pulizia, manutenzione, l'80%, 80, delle procedure di appalto di Expo Milano, superiore a 40.000 euro, ha subito dei rilievi. Per 4 gare è stato sollecitato il commissariamento, in 2 casi i decreti sono già stati emessi e 46 imprese sono state bandite da Expo. Questo è un bilancio di una relazione che racconta quanto accaduto in questi mesi dopo gli arresti ordinati dai giudici di Milano con il commissario anticorruzione Raffaele Cantone, che è sicuro e dice: noi ce la faremo, la collaborazione con i vertici di Expo sta funzionando, l'importante è recepire in fretta le indicazioni che arrivano dal nostro ufficio. Ovviamente in questo articolo a pagina 16 del Corriere si parla di tutte le infiltrazioni dell'Andrangheta, dei contratti blindati. Comunque Expo dal catering ai servizi, rilievi per 8 appalti su 10. 8 su 10. Ma veniamo qui all'articolo che mi fa pensare di questa giornata, l'articolo che vince il premio oggi, mani sul volante, se siete alla guida e magari sotto la neve, anche mani agli ombrelli se state passeggiando. I furbetti del gettone, è la nuova frontiera scoperta ad Agrigento, ma non solo. Ad Agrigento 1133 sedute di commissioni consigliari con annessi gettoni per 300.000 euro in un anno, e la gente è andata in piazza a protestare. Noi parleremo anche con un presidente di queste commissioni alle 8.15. Ma succede in tutta Italia, lo scrive Antonio Fraschilla, pagina 21 di Repubblica. Ad Agrigento va bene, si sa, ma per esempio in un comune della Puglia i consiglieri per ogni seduta ricevono un gettone di 72 euro che al mese diventano 2.400. Nel comune di Bari negli ultimi 4 mesi 50 sedute di commissioni a settimana. 220 al mese. A questo ritmo si supereranno le 2000 convocazioni l'anno. Pensate che a Palermo una circoscrizione si è riunita il 13 e il 19 agosto per parlare del tema salviette e asciugamani nell'apposito contenitore. E ancora a Pescara ci sono commissioni che iniziano alle 10:40 e finiscono alle 10:45. A Genova il caso sollevato da Repubblica di un esponente di una commissione che si presentò alle 14:48 e uscì alle 14:49 senza neppure togliersi il casco, tanto il gettone è assicurato. Parassiti, ladri, ingrati, cornuti e delinquenti. Informazione, ultima frontiera. Queste sono le notizie di Alessandro Milan per raccontare di eventi e persone che mai giornalista aveva scoperto prima. Sì, devo dire una cosa, beh, elaborata, bella. Io ero un fan di Spazio 1999 e praticamente non ho mai visto Star Trek, devo dire, con queste orecchie lunghe, orecchie strane, Spock chi era. Io ero un fan sfegatato di Spazio 1999, sono sempre stato un po' così, mentre tutti leggevano Tex io leggevo Zagor, tutti leggevano Topolino io Braccio di Ferro e Geppo, sono sempre stato un po' così, un po' controcorrente. Però vabbè, grazie caro ascoltatore, intanto vogliamo continuare la lettura dei giornali. E la politica, beh, regala un momento in cui, attenzione, c'è una transumanza in Parlamento non indifferente, eh? La uso con affetto ovviamente questo termine transumanza, visto che parliamo di esseri umani. E, cioè, che cosa sta succedendo? Sapete che abbiamo raccontato del progetto di fare i responsabili, coloro che potrebbero sostenere il governo come numeri. Ora, chi può salire sul carro dei Dem? Monica Guerzoni, pagina 9 del Corriere della Sera, racconta tutti i movimenti che ci sono. Pare per esempio che oggi i senatori di Scelta Civica confluiscano nel PD. Si guarda per esempio alla Borletti-Buitoni, potrebbe entrare da Scelta Civica a passare al PD, ma anche altri senatori, tanto che il sottosegretario Zanetti dice: Renzi ci spieghi di quale approdi comuni sta parlando, trovarsi dentro un PD guidato in questo modo deve essere difficile, entrarci su chiamata è demenziale. Insomma, Scelta Civica rischia di perdere praticamente tutti i senatori. Mario Monti rimarrà da solo, racconta Repubblica, dovrebbe così aderire al gruppo delle autonomie. Insomma, si sfasciano i partitini, partitucoli, come le ha chiamati almeno in Parlamento, come le ha chiamati Renzi, e confluiranno nel PD, tanto che c'è talmente movimento. Anche Repubblica parla di caccia ai rinforzi, soprattutto al Senato. Anche gli ex del Movimento 5 Stelle aprono: Matteo, parliamo. Insomma, un gran movimento, un gran pissi pissi, tu dove vai, tu dove confluisci, tanto che Scilipoti, considerato il re dei o responsabili o Volta Gabbana, come lo volete dipingere, scrive, viene intervistato dal Fatto Quotidiano, da Luca De Carolis, e dice: ora Renzi mi chieda scusa, cioè, come dire, io che sono stato insultato da tutti, che ho però gettato quelle parole nel dimenticatoio, ora dico, Renzi dovrebbe scusarsi pubblicamente col senatore Scilipoti, parlo di sé in terza persona, ha detto di tutto e di più su di me. Ora invece io sono quasi contento, perché quella mia scelta di allora di fare gli interessi del paese appare ancora più giusta, la rifarei 100 volte. Volevano imporci un presidente del Consiglio non eletto dai cittadini e io feci tutto nell'interesse del popolo. Ora però il PD cerca voti in Senato, ha visto Scilipoti, certe scene sono davvero imbarazzanti per i miei colleghi e non mi faccio entrare nel dettaglio, sono cose che non mi toccano. Insomma, Scilipoti che ora dà lezioni di etica politica a coloro che vogliono passare all'interno del PD. Però, certo, c'è questo gran movimento. Attenzione oggi, ci potrebbero essere alcuni ingressi nel PD da parte di senatori di Scelta Civica, da parte di alcuni che sono trovati senza partito, alcuni fuoriusciti del Movimento 5 Stelle. Staremo a vedere. Intanto l'altro tema politico che fa litigare molto è un emendamento al decreto mille proroghe che di fatto toglie lo sconto sulle frequenze TV a Mediaset e alla RAI. Ora, sapete che Renzi sulla RAI, quando aveva anche chiesto cos'è 150 milioni di sacrifici da fare, insomma non è la prima volta che... Però Mediaset, dopo che si è rotto o forse rischia di rompersi il patto del Nazareno, ecco che subito viene vista da Forza Italia come una ritorsione. Come dire, voi rompete il patto del Nazareno, e spunta il giorno dopo l'emendamento al decreto mille proroghe che toglie lo sconto alle frequenze, all'acquisto frequenze di TV, all'affitto delle frequenze TV, e dovete pagare, cari Mediaset, 50 milioni di euro in più. La vendetta del Nazareno per Libero, far pagare 50 milioni a Mediaset. C'è Minzolini che dice questi sono metodi da Scarface. Anche La Stampa con Fabio Martini, quel messaggio in codice a Silvio sulle frequenze TV. Per la verità lo stesso Silvio Berlusconi, come racconta Repubblica in un retroscena, dice ma guarda un po' che tempismo. Per la verità parla di vera e propria ritorsione, leggete qui su Repubblica Goffredo De Marchis e Carmelo Lopapa, pagina 10, retroscena. Sono basito, avrebbe detto Berlusconi ai suoi, ma questi fanno sul serio? Cos'è una ritorsione? Reagiscono davvero in questo modo? Una questione che i vertici di Cologno Monzese speravano di aver archiviato, quella dello stralcio, dopo lo stralcio dell'emendamento in legge di stabilità, ecco invece che questo emendamento è rispuntato nel decreto mille proroghe. Per la verità fa un'intervista al Fatto Quotidiano il sottosegretario Giacomelli, sottosegretario che si occupa proprio dell'informazione, è intervistato da Carlo Tecce, dice noi del PD non faremo male a Mediaset. Io tengo al patto del Nazareno, esordisce Giacomelli, vorrei che fosse restaurato, ma non c'entrano i ricatti a Mediaset, questa è follia. Giacomelli, così come Renzi, non farebbero mai una ritorsione a un'azienda per motivi politici. Trovo offensiva questa lettura. Ci sono colleghi di Forza Italia troppo sensibili o troppo interessati, però dimenticano che questo provvedimento segue un decreto del 29 dicembre. Io ho anche buoni rapporti con Fedele Confalonieri, l'unica differenza è che io tengo all'Inter. E vabbè, caro sottosegretario Giacomelli, insomma, però se si vuol fare del male lo dica subito, questo ovviamente è un mio inciso, ma insomma si può sempre rimediare e guarire applicandosi un po'. Comunque il sottosegretario Giacomelli dice non c'è nulla di questa lettura, anzi è offensivo leggere questa come una ritorsione. Poi fa anche un appunto però a Maurizio Crozza, Giacomelli, dice posso dire una cosa su Mattarella, dice in questa intervista. Sì, mi è simpatico Crozza, ma sbaglia a prendere per caratterizzante il grigiore di Mattarella, per un semplice motivo, Mattarella non è di colore grigio e non passa inosservato. Al che Carlo Tecce del Fatto chiede, scusi, questo governo esonda un po' nei palinsesti televisivi, Giacomelli, cioè lei giudica Crozza, Renzi critica i talk show. E sono d'accordo, dice Giacomelli, il modello dei talk show va rivisto, non funziona più, va creata una nuova formula. Vabbè, quindi Giacomelli, Bacchetta, Crozza e Renzi, i talk show. Silvio è furioso per Libero, che tempismo questo delle frequenze televisive. Ma non è ritorsione, assicura Giacomelli. E anche oggi dacci la nostra rissa quotidiana politica. Amen. Per la giustizia invece c'è stata una svolta sull'anticorruzione, perché si è sbloccato l'impasse in maggioranza, sono state proposte nuovi dettagli sul piano anticorruzione. I dettagli li trovate per esempio su pagina 7 del Corriere della Sera. Alessandra Arachi racconta come cambiano le pene minime, le pene massime, la punibilità d'ufficio, le pene accessorie, lo sconto per i pentiti. Questo è un elemento interessante. Su questo c'è anche un'interessante intervista a Carlo Nordio, che è procuratore aggiunto a Venezia, intervistato sempre dal Corriere, da Giusy Fasano, a pagina 7, dice Carlo Nordio, un aspetto interessante, e cioè, guardi, io la penso così sulla corruzione, è vero che tante volte chi paga la mazzetta la offre, ma è anche vero che spesso lo fa perché non ha altra scelta per lavorare, e allora propongo una soluzione, decidere che l'imputato è chi le mazzette le prende, non chi le dà. È una scelta processuale, il concetto è che l'infedele corrotto non va intimidito, ma va disarmato, nel senso che dobbiamo togliere dalle sue mani le armi che usa per pretendere la mazzetta. E queste armi sono le leggi numerose, complicate, bizantine che abbiamo e che gli consentono di fare quello che vuole. Nordio, per dire in quale paese siamo, cioè di pieno di leggi bizantine e stupidi, usa questo aggettivo, e stupide, fa un esempio. Anni fa ci trasferimmo in una sede provvisoria del tribunale. Una legge diceva che in ogni tribunale dovesse esserci una toilette. Un'altra legge diceva che a Venezia i palazzi storici non si potevano toccare. L'abbiamo risolta all'italiana, violando la legge. Ecco, questo il procuratore Nordio sul Corriere della Sera. A proposito di mazzette, tra l'altro oggi Libero amplia e torna sull'articolo di ieri di Repubblica che raccontava come l'avvocatura dello Stato in Sicilia non si è costituita parte civile, quindi la regione Sicilia non si è costituita parte civile nel processo per un suo dipendente che ha preso una mazzetta, perché l'entità della mazzetta non era tale da destare allarme sociale. Oggi Libero mette in prima pagina: in Sicilia la mazzetta è normale. Vabbè, quelli di Libero ovviamente calcano sempre un po' la mano. Comunque c'è anche una lettera aperta di Maurizio Belpietro a Mattarella, presidente della Repubblica, che ha puntato molto nel discorso di insediamento sulla corruzione, sulla lotta alla corruzione, e che è siciliano. Come dire, caro presidente Mattarella, l'ha sentita questa? L'hai sentita anche tu, Mauro Meazza? Buongiorno, buongiorno Alessandro, ho sentito, vedo che sei tornato alle care vecchie abitudini, per cui in casa... Ti ho associato a Mattarella! Mattarella. Sì, allora ne sono naturalmente onorato. Avevo più compreso che stavi parlando di mazzette, corruzione. Sì, ma la mazzetta dei giornali ce l'ho qui e io tutti i giorni la prendo. Io prendo la mazzetta, si sa. Senti, hai trovato mica anche il decreto sul catasto nella mazzetta dei giornali? Guarda, ieri no, ma... No, però sta arrivando. Se guardi oggi nelle pagine Norme e Tributi sul Sole... Ti diamo delle anticipazioni, anzi ti consiglio... Comunque io non ce l'ho qua. Non ce l'hai, non hai neanche quello del CFR che cercavamo l'altro giorno. Vabbè, chiedili tutti una volta, aspetta. Sì, tanto dobbiamo vederli tutti il 20 di febbraio, Alessandro. No, manco quello. Bisogna che prima del 20 li trovi, eh? No, niente. Allora ti voglio dire però che oggi sul Sole 24 Ore, dentro Norme e Tributi, in prima pagina su Norme e Tributi, trovi proprio... delle anticipazioni per quanto riguarda il decreto di riforma del catasto. Tra le altre cose potrebbero anche mandarti una mail, sì, per chiederti, ma ci dica un po' bene la planimetria di casa sua, che non ci risulta no, pensavo ci bene. Dica dov'è il decreto. No, io non ce l'ho. Non proprio a te, insomma, era un tu, sì, generico. Potrebbero mandarci una mail se non risultano le planimetrie, ma tutto quanto viene spiegato oggi appunto da Saverio Fossati sulle pagine di Norme e Tributi. Poi un altro decreto che più o meno si sta trovando è quello Jobs Act, sì, anche quello lì, 20 febbraio, decreto sul contratto tutte le crescenti, modifiche per la possibilità di prorogare o meno i contratti a termine e quant'altro, lo raccontiamo oggi sul Sole 24 Ore, ma non nelle pagine Norme e Tributi, bensì nelle prime pagine del Sole 24 Ore, non vorrei che tu lo cercassi invece altrove. Invece, vorrei dirti che è pronto il software per la certificazione unica, quella che ha sostituito il CUD da quest'anno. Ti prego di non usare la sigla per certificazione quella unica, ridotta, certo, ti ringrazio, per non suscitare cattivi istinti. Ma perché? Poi, naturalmente, Certun. Certun potrebbe andare bene, e Certuni anche va bene lo stesso. Ti vorrei anche dire, naturalmente nelle pagine, nelle primissime dedicate alla crisi greca, abbiamo anche una bussola per quanto riguarda i consigli ai risparmiatori, agli investitori, una bussola di Maximilian Cellino che ti invito a leggere e a meditare. E infine, siamo al 94esimo? Sì. Ah, ok. E infine ti segnalo una preziosa indicazione sull'etilometro, non perché tu sia tu guidi abitualmente in stato di ebbrezza, non voglio dire questo, no. Però perché te lo segnalo? Perché Maurizio Caprino ci informa che la Cassazione ha precisato a sezioni unite, quindi nella sua massima efficacia, ha precisato che ti devono dire che se ti fanno prova dell'etilometro tu puoi chiamare anche l'avvocato in quel momento. Poi bisogna vedere se l'avvocato arriva o no, ma la questione è controversa. Dimmi, no, se è sobrio anche lui. Se è Sì, che non arrivi più che altro anche lui in stato di ebbrezza. Però puoi chiamare l'avvocato, ma ti spiega tutto Maurizio Caprino, perché ti parlo di etilometro, di questi di viabilità. Indovina un po'. Buona domenica Alessandro e buona domenica a tutti. Alessandro Milan, il Rossello Brescia dell'informazione. Oh, meno male che arriva questa tiramisù di morale, dopo che abbiamo scoperto che nevica, è inverno in Italia. Allora, a proposito di Grecia, vi segnalo che il ministro Padoan, ministro dell'economia, rilascia un'intervista ad Avvenire. Sono due pagine, intervistato da Eugenio Fatigante e Arturo Celletti. Parla di tutto, cominciando dalla troica. Superare la troica è un falso problema, dice Padoan. Il punto è ridisegnare i programmi. E a proposito della BCE, di non accettare i bond greci in garanzia, la BCE fa bene, non mi stupisce. Quel messaggio serve per dire che le istituzioni europee sono pronte a fare la loro parte, ma nell'assoluto rispetto delle regole che impediscono alla banca centrale di concedere finanziamenti se non a certe condizioni. Ma parallelamente, dice Padoan, c'è l'esigenza legittima della Grecia, il cui popolo ha democraticamente eletto un governo per rimettere in piedi l'economia e portare il paese fuori da anni duri di sofferenza e sacrifici. Dunque, dice Padoan, troica ancora attuale per Atene, però ci vuole ora un aiuto. Parla anche di questioni italiane, per esempio della riforma delle popolari, che è molto anche cara ad Avvenire. Ebbene, dice Padoan, sulle popolari non si torna indietro. Non capisco, sono 25 anni che si parla di questa riforma, non si è fatto mai niente anche da parte delle stesse popolari. Era urgente? Sì, era urgente, perché non ci si è resi conto che con una velocità impressionante le istituzioni finanziarie e i mercati cambiano radicalmente. E dunque la mia premessa è che se è vero che il terreno di gioco sta cambiando, questo impatterà su tutte le banche. Parla anche del decreto del 3%, il decreto fiscale. Il 3% sarà rivisto? È possibile, risponde Padoan. Fra gli strumenti da adottare non ci sono solo la percentuale in sé, ma anche i limiti entro i quali farla scattare. E alla lettura personalistica, cioè a favore di Berlusconi, sì, me l'hanno anche detto in faccia, ma è una lettura molto italiana, e pensare che ci sia qualcosa di personale in questa norma è offensivo. Così Padoan su Avvenire. A proposito di Grecia, vi segnalo Federico Fubini, che racconta la storia, pagina 6 e 7, di come si è arrivati a questa situazione. Io quando l'ho letta, sì, certo, un po' sapevamo che la Grecia avesse truccato i conti nel passato, ma leggere che la Grecia ha truccato i conti, che è entrata nell'euro senza mai rispettare il requisito del rapporto deficit-PIL del 3%, nel 2009 per esempio aveva dichiarato un disavanzo al 6%, ma i conti erano falsi. In realtà successive revisioni hanno fissato questo rapporto al 15,2% del PIL. E come è possibile, scrive Fubini? È possibile perché, sentite un po', per chi lavorava nell'Istituto Statistico di Atene, cioè l'Istat di Atene, era considerato antipatriottico pubblicare dati veritieri. Antipatriottico. Falsificavano. Per decenni il paese aveva conosciuto una lunga fuga dalla realtà. Gli elettori ricevevano posti di lavoro pubblici e i politici ricevevano i voti da loro e dai loro familiari. Il resto non contava, e noi dovremmo adesso sborsare soldi per salvarla. Come ho detto io in un impeto di, non lo so, vado a baciare in bocca Angela Merkel. Piuttosto che dare un centesimo ad Atene, non c'entra Tsipras, ma i governi precedenti, ma questa è la situazione. Un bacio in bocca alla Merkel. Prima abbiamo sentito il traffico. A proposito di traffico, vi segnalo, sono in conclusione, le multe strane, così scrive il Fatto Quotidiano, cancellate all'allora ministro Maria Stella Gelmini. L'onorevole Gelmini e le multe cancellate. Si parla di 3 multe. Tolte per una BMW lanciata a 145 km orari quando il limite era di 90, guidata dall'amico idraulico nominato agente di pubblica sicurezza grazie a una legge voluta qualche anno prima da Berlusconi. 3 multe poi tolte perché con un fax arrivato dal ministero dicendo che le multe sono state prese nell'adempimento del dovere di ministro. Ma questo fax, racconta il Fatto, sembra un fax un po' posticcio, addirittura ministero dell'università con due apostrofi, dell'università, due apostrofi. Vabbè, l'onorevole Gelmini e le multe cancellate, Andrea Tornago sul Fatto Quotidiano. A pagina 8 racconta, invece per quel che riguarda le auto o le auto blu, Gianantonio Stella racconta che al governo hanno un obiettivo: arrivare dal numero attuale di 2000 e rotte auto blu, arrivare a da 1600 a 95 auto blu. Sì, buonanotte. Questo è l'obiettivo comunque, 95 auto blu dovranno rimanere secondo il governo a disposizione di tutti. Va bene, siamo al momento conclusivo, quello della carta costa, quello dell'articolo più inutile scovato oggi sui giornali, non è un articolo ma una pagina intera, a firma Valeria Braghieri, la troviamo sul Giornale, parla delle curvi, le donne un po'... curvi di tutto il mondo, unitevi! Ora c'è l'armadio che fa per voi, per il vostro guardaroba un pochino abbondante. Ma chi se ne frega? 24 mattino. Siamo qui, sono le 8 e 18 minuti, ben ritrovati cari ascoltatori. Stai a vedere che si scoperchia lentamente il nuovo trucco della politica per spremerci un po' di soldi, perché si tratta ovviamente sempre di soldi pubblici, di questo stiamo parlando. Le inchieste sulle sprechi delle regioni le abbiamo ormai viste, ne hanno riempito una letteratura praticamente, così come quelle della politica parlamentare, ma stai a vedere appunto che si apre un nuovo fronte. Oggi Repubblica, per esempio, fa tutta un'inchiesta su un viaggio in Italia, nell'Italia delle commissioni consiliari, commissioni dei comuni dove spesso ci si riunisce solo per che cosa? Beh, per incamerarsi il gettone di presenza, magari di 60, 50, 70 euro lordi, ma se uno, come a Bari per esempio, a Bari negli ultimi 4 mesi convoca 50 sedute di commissione a settimana, 50, ovviamente varie commissioni, e ci sono 72 euro a gestone, si può arrivare, secondo i calcoli di Repubblica, a 2.400 euro lordi a consigliere, che è un discreto stipendio, no? A Genova fu epocale il caso certificato di un consigliere che si presentò alle 14.49 in commissione, non si levò neppure il casco della moto e alle 14.50 era già fuori dopo aver timbrato la presenza, quindi risultava presente e prendeva il gettone. A Palermo una circoscrizione si è riunita il 13 e 19 agosto. E che urgenza c'era attorno a Ferragosto? L'argomento oscuro, quantomeno, scrive Repubblica, salviette e asciugamani nell'apposito contenitore. Due sedute, 13 e 19 agosto. Intanto voglio salutare, perché di Sicilia oggi vi occupate in prima pagina, Massimo De Manzoni, che è il vice direttore di Libero. Buongiorno Massimo. Vabbè, questa vicenda delle commissioni è una vicenda che tra l'altro è stata, l'avete scritta anche voi, no? Soprattutto per... Poi penso che l'inchiesta nasca da un caso clamoroso che avvenne proprio in Sicilia, che scrivemmo noi. Ad Agrigento. Infatti, tra l'altro, tra poco dovrebbe essere con noi. Prima l'abbiamo sentito, ha detto sì, sono qui, chiamatemi. Adesso non si trova al telefono Michele Maglia, che è presidente di una commissione, la Commissione Lavori Pubblici Urbanistica del Comune di Agrigento. Lì addirittura 1133 riunioni delle 6 commissioni consigliari in un anno, anche a Natale, a ridosso di Natale. Massimo, sì, succede, sì, questo. Un ritmo pazzesco. Avevamo fatto il conto che erano qualcosa come 20 volte più delle riunioni che avvenivano in Trentino Alto Adige. Esatto, 1133 riunioni ad Agrigento, 109 a Trento. È questo il nuovo fronte, secondo te, degli sprechi? Ma secondo me è uno dei fronti, non è il nuovo fronte purtroppo, è uno dei fronti che nelle regioni purtroppo si sono aperti. Noi avevamo fatto una riforma in senso parafederalista, ma poi ci siamo fermati a metà. Il risultato è stato clamorosamente negativo. Abbastanza negativo. Tra l'altro, ci sono regioni particolarmente nel mirino. Noi, appunto, come ricordavi, oggi parliamo della Sicilia. Non per le commissioni, ma per altri motivi, ma poi scopri di quelle cose che sono abbastanza clamorose. No, ma certo, voi avete raccontato ieri su Repubblica, è uscito questo trafiletto, ma voi giustamente avete dato ampio risalto a questa vicenda, e cioè in Sicilia cosa succede? Succede che l'Avvocatura dello Stato decide di non costituirsi parte civile, quindi la Regione Sicilia non si costituisce parte civile per il procedimento a un funzionario che è stato beccato a prendere una mazzetta. La motivazione qual è, caro Massimo De Manzoni? La motivazione è che in Sicilia le mazzette non creano allarme sociale, non sono un reato tale da creare particolare allarme sociale, quindi non c'è bisogno che l'amministrazione pubblica si allarmi particolarmente. E con un effetto collaterale, ovviamente, che è quello che se tu non ti costituisci parte civile in un processo è più difficile recuperare il mal tolto, per cui nel processo penale magari il funzionario corrotto viene condannato, ma magari l'amministrazione non recupera i soldi che dovrebbe recuperare perché è assente dal processo. Titolo vostro di prima pagina: in Sicilia la mazzetta è normale. Ovviamente voi siete sempre un po' provocatori nei titoli. Quello chiedo ancora più bello, sì. Regione a corruzione speciale. Sì, regione a corruzione speciale. Amici siciliani, ovviamente Massimo De Manzoni vi saluta. Voglio salutare anche Massimo, salutiamo Giuseppe Greco. Giuseppe Greco, buongiorno. Buongiorno. Perché è successo qualcosa che i giornali ad Agrigento hanno definito come un qualcosa di peculiare, di particolare e di innovativo. Detto che intanto continuiamo, stiamo cercando di contattare il presidente della, lo dico anche a lei Greco, presidente della commissione del Comune sui lavori pubblici e urbanistica, Michele Maglia, il quale ieri ci ha detto che interveniva, oggi alle 8.05 ci ha risposto e ha detto sì, sono qua, intervengo. In questo momento è disappeared, scomparso. Se per questione di serietà ci rispondesse al telefono il presidente della commissione, ci fa una grossa cortesia prima di prendere un impegno che poi non rispetta a distanza di 12 minuti. Comunque Giuseppe Greco, lei ha creato, diciamo, su Facebook, è uno di coloro che ha creato l'evento su Facebook, Noi Siamo Altro. Chi siete? Siamo un gruppo di cittadini, alcuni di noi appartengono a tantissime associazioni associazioni culturali che hanno lavorato all'Agrigento. Io faccio parte di una di queste associazioni, sono membro del Laboratorio Vallicaldi, che è appunto un'associazione che ha connotazione di costante impegno civico e che opera all'Agrigento da alcuni anni. Siamo tantissimi cittadini. Cosa avete fatto? Siete scesi in piazza martedì scorso per protestare contro cosa? In seguito allo scandalo dei gettoni di presenza, sto parlando delle famose 1133 riunioni di commissione in 9 mesi. Esatto. E della puntata di Ballarò, in cui è messa nella sua drammaticità la situazione agrigentina, abbiamo deciso insieme appunto a tanti cittadini di organizzare una grande manifestazione di protesta. E il cui slogan è stato appunto Noi Siamo Altro. Noi Siamo Altro. Ma scusate, ma Greco, ma non ve ne... cioè nessuno se n'è accorto in questo anno che le commissioni si riunivano? Nessuno ha denunciato? Nessuno ha detto ma scusate, ma continuano a riunirsi? Cioè ci sono dei cittadini che in genere seguono la vita dei consigli comunali? Sì, il grande merito di Ballarò è stato appunto quello che noi ne parlavamo, denunciavamo, ci sono tanti, per esempio c'è un gruppo Facebook Agrigento.capo che dal 2011 che diceva e che diciamo denunciava tutte queste cose. Però diciamo il catalizzatore è stata la puntata di Ballarò, in cui appunto è emersa questa drammaticità della situazione argentina. Certo. Tra l'altro ci chiedono come è possibile fare 1133 riunioni per le commissioni in un anno, ma sono 6 commissioni consigliari, quindi ogni commissione consigliare avrà fatto, dividete per 6 e poi in 365 giorni all'anno si riescono a fare, se si usa un ritmo serrato e soprattutto se le riunioni magari durano, quanto duravano alcune riunioni? Alcune duravano 35 minuti, ma che era il diciamo, il tetto minimo per poter pagare il gettone di presenza. E certo, 35 minuti. Certo, nei confronti di questa, noi abbiamo protestato contro questa cattiva amministrazione, contro delle logiche, quella del gettone ne è l'esempio principe, che hanno portato raggiungendo un periodo di estrema distanza tra quello che è il bisogno della cittadinanza e la risposta dell'amministrazione. Raggiungendo esiste una cittadinanza attiva che si è spesa in questi ultimi anni e che ha supplito a volte anche col proprio civismo a, diciamo, alcuni compiti demandati all'amministrazione. No, è chiaro, però insomma la gente, quanti eravate in piazza a manifestare? 2000 persone, ma forse anche di più. Una città che dice no alla logica del gettone ed è indicativa questa gestione fallimentare dell'intero consiglio comunale. Massimo De Manzoni. Ma è interessante, sì. Massimo De Manzoni, come leggere il fatto che 2000 cittadini si siano messi in piazza a protestare? Non so quanto poi possa avere come effetto questa protesta dal punto di vista concreto, perché può rinascere da, come dire, una presa di coscienza civica da parte della popolazione, anche una rinascita contro questo tipo di problematiche? Ma io penso che la popolazione sia scandalizzata quando succede, quando apprende di alcune cose che succedono, e non sono le uniche. Agrigento, come in tutta la Sicilia, dovrò protestare anche per molte altre cose. Noi oggi scriviamo, per esempio, che pagano più i dirigenti dei musei di quanto incassino dai musei, una cifra spaventosa. La Sicilia riesce a incassare solo 4 volte di più di Malta, sto parlando di Malta, uno sputo nel mare. La Sicilia, con tutte le bellezze che ha e con la sua grandezza anche di coste di isole intorno, riesce a incassare solo 4 volte di più di Malta di turismo. Cioè, è una roba che non sta in piedi. Voi però a Libero ne fate una questione anche di, appunto, di statuto speciale. Perché dite che lo statuto speciale è un po' la rovina di questo? È perché lo statuto speciale è che potrebbe essere una benedizione, e in certe regioni, come il Trentino Alto Adige per esempio, che consente di avere a disposizione molto più soldi rispetto alle regioni a statuto ordinario, e poi ogni volta che ci occupiamo della Sicilia scopriamo che questi soldi finiscono nelle tasche solo di qualcuno e non dei cittadini e non delle infrastrutture e non dei servizi che servono, per cui è chiaro che prima o poi i cittadini vanno in piazza. Viva Dio, forse anche troppo tardi, forse, ma non è troppo mai troppo tardi. Non è mai troppo tardi. Giuseppe Greco, vi siete chiesti che cosa potete fare voi? Perché in questo momento ad Agrigento, vogliamo ricordare, c'è un commissario, è caduta la giunta, c'è stato un processo, il sindaco è caduto, ci sarà una votazione tra poco. Pensate per esempio di in qualche modo trasformare questa rabbia in qualche movimento, di confluire in qualche partito? Come pensate adesso di andare avanti nel far rinascere dopo la protesta legittima? Sicuramente oggi abbiamo una consapevolezza maggiore di quella che avevamo ieri, e sicuramente faremo una scelta molto, ma molto oculata alle prossime amministrazioni. Qualcuno magari di noi emergerà e si candiderà a consigliere, viva Dio, è una persona nuova finalmente, noi soliti noti della politica. Sì. Con piccoli passi secondo me si cambia questa nostra città e questo nostro paese. Io dico che abbiamo scoperchiato intanto una pentola che era chiusa da troppo tempo. Ci sono indagini della magistratura, la Guardia di Finanza. No, ricordiamo, la Guardia di Finanza ha voluto acquisire tutti i dati riguardanti tutte le 1133 sedute. Tra l'altro ci ha chiamato, do il numero anche per gli ascoltatori, 800 24 00 24, Antonio dalla provincia di Treviso, mi risulta e mi dicono essere un consigliere comunale. Buongiorno Antonio, da dove ci chiama? Buongiorno, chiamo da Casiere in provincia di Treviso, sì. 3 chilometri dalla provincia di Treviso. Io faccio una premessa, sono consigliere comunale da un anno e ho anche restituito il gettone di presenza devolvendolo a delle associazioni locali e lo farò comunque nell'arco di 5 anni. Questa è una scelta, come dire, di cui le diamo merito, una scelta personale. Il paese dove sono consigliere è ovviamente molto piccolo, quindi di consigli comunali e di commissioni consigliari ne facciamo molte poche. Io vorrei solo ricordare una cosa: il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo politico, sì, quindi non dovrebbe occuparsi in un comune delle salviette, sì, del bagno. Dovrebbe ogni commissione trattare argomenti, ripeto, di indirizzo politico. Sì. Esiste la Giunta Comunale che si occupa Ma probabilmente quello è stato un, insomma, Repubblica l'ha messa a Palermo come una commissione eccezionalmente, tanto che finisce in pagina di giornale, strana, ecco. Voglio pensare che tutte le commissioni non si occupino di questo. Ma da lei, da voi quante sono le sedute, Antonio? Giusto per capire, siete un piccolo comune. Grosso modo ci si riunisce una volta prima del consiglio comunale, che avviene più o meno una volta al mese. In un piccolo comune, una volta al mese, quindi ne fate 12 in un anno, 12, 15, 20, più o meno, 20. Anche un po' meno. Vabbè. E questo dovrebbe essere, è un momento importante quello della commissione, perché in realtà in consiglio si ha poco tempo per discutere, ma quindi la vera discussione avviene ma questa avviene, guardi, ma anche nelle commissioni parlamentari le leggi si formano lì, poi si va in aula. Antonio, no, ma è stato chiarissimo, certo, sono momenti importanti, ma 1133 momenti ad Agrigento sono un po' troppi. Andiamo in pubblicità, poi rientriamo. Faccio ancora un appello, mi dice Lorenzo Nespoli dalla redazione che è il cellulare forse che prende male. A un certo momento ha risposto Michele Maglia, presidente della commissione del comune sui lavori pubblici urbanistici, poi non si sentiva niente, è caduta la linea. Noi siamo ancora in diretta qui, se può accedere a un numero che in qualche modo che in qualche modo possa risponderci, a noi fa piacere. Sa com'è, abbiamo e vorremmo sentire il suo parere, visto che ci ha detto che ce l'avrebbe dato. 24 mattino. Allora, siamo qui alle 8:38 minuti, stiamo cercando di contattare ancora, stiamo parlando delle commissioni, Agrigento, 1133 sedute, c'è chi mi scrive, ma prima di avere la disponibilità del presidente della commissione Maglia, avete pagato il gettone di presenza? No, no, non abbiamo pagato gettone di presenza. Chi mi dice che non può rispondere perché è in commissione? Vediamo se risponde al telefono, non lo so, risponde al telefono, pronto, no. Ma c'è? Niente, pronto? Stiamo provando a fare il numero in diretta. 3, 7. No, tira giù che stiamo su, ci manca solo che diamo il numero di telefono in diretta del presidente della commissione. Vabbè, siamo con Massimo De Manzoni, vice direttore di Libero, che oggi titola così in prima pagina: in Sicilia la mazzetta è normale. Chiaro, è un'esagerazione di titolo di giornalista, ma insomma riguarda questa vicenda che abbiamo raccontato, processuale. Siamo anche con Giuseppe Greco. Giuseppe Greco, ha visto, se lo conosce lei Maglia, se lo incrocia l'Agrigento, ce lo saluta da parte nostra, che ci aveva promesso di essere qui in trasmissione fino a un quarto d'ora fa? Ma sì, lo conosco, ieri sera avrà fatto tardi, ero anche io al consiglio comunale. No, ma alle 8 ci ha risposto dicendo ok, chiamatemi, come avevo, e adesso poi è scomparso. Sì, ma abbiamo assistito a un consiglio comunale ieri francamente penoso. C'era il consigliere che si scandalizzava, si indignava del cittadino che si era indignato. Siamo me lo dica, ce lo racconti. Cioè si indignavano della vostra indignazione. Sì. Indigniamoci tutti. Guarda, non abbiamo parole qua da Agrigento. Un dato che è emesso è sicuro che è voluto uno strappo tra la cittadinanza e la sua amministrazione. Eh beh, posso capire. Fatemi sentire Corrado da Siracusa, che ci chiama da un'altra città siciliana straordinaria. Corrado, buongiorno. Buongiorno. Io sono d'accordo in parte con il direttore di Libero, perché ritengo che lo statuto speciale sia stata un'ottima idea all'inizio, ma per poi come lo si è utilizzato, di fatto ha prodotto solo enormi danni per la regione Sicilia e soprattutto per i tanti sicilianonesti, quelli che come me dal 95, dopo la laurea, vanno tutti i giorni a lavorare senza aver bisogno di alcun. Quindi è abbastanza d'accordo con quello che abbiamo promosso a direttore di Libero, il nostro Maurizio Belpietro. Massimo De Manzoni, no, ma è vice direttore di Libero, deve ancora fare un attimo le scarpe a Belpietro, però al di là della battuta è abbastanza d'accordo, cioè buona la premessa, ma come spesso succede in Italia, De Manzoni, disastrosi o quasi i risultati. La premessa è eccellente, la premessa è che la gran parte delle tasse rimangono nella regione che... Sì. Dove vengono prodotte per pagare molti dei servizi, però, ascolto, la cosa dovrebbe funzionare, che in questo modo il cittadino è più vicino al centro di spesa e quindi può controllare meglio come vengono pagate come vengono impiegati i suoi soldi fondamentalmente. Questo era il principio base. È stato tradito clamorosamente, certo che non è neanche facile, prima lo chiedevi prima al signore di Agrigento, come avete fatto a non accorgere? Non è facile, onestamente, la gente ha altro da fare, ci si deve anche minimamente fidare delle persone che leggiamo, perché se questo è il livello, se ti fregano anche sulle riunioni e commissioni, no, ma è chiaro, basta un dato, no? Comunque Trento 109 commissioni e Agrigento 1133. Perché cito queste città? Perché nella classifica che Il Sole 24 Ore fa sono considerate al primo posto e all'ultimo posto nella qualità della vita, quindi... Trento regione a statuto speciale, certo. Vorrei sentire Massimo dalla provincia di Monza Brianza, mi segnalano anche lui essere un consigliere comunale. Buongiorno. Sì, buongiorno Milan, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Io volevo portare la mia testimonianza come consigliere comunale da un anno e mezzo a questa parte, quasi due anni. Sì, dove? La mia esperienza a Carate Brianza. A Carate Brianza. Ecco, noi come consiglieri comunali ci vediamo quattro volte al mese per ogni commissione, quindi ci sono quattro commissioni consigliari. Sì, quindi una seduta, però si può far parte di più commissioni ovviamente. Io sono l'unico a essere stato eletto nella mia lista civica, per cui devo partecipare a tutte le commissioni. Ah, quindi lei ha quattro commissioni. Fa. E quanto è il gettone? Penso 18-19 euro, penso, perché ho rinunciato e sono riuscito a convincere anche gli altri colleghi a rinunciare, e le nostre rinunce sono servite a comprare due defibrillatori da donare a un centro anziani e al centro sportivo. Cioè, ma capite che le cose si possono fare? Per carità, cioè, Massimo, come diceva prima l'ascoltatore della provincia di Treviso, non vogliamo fare i santerelli che uno deve fare la politica gratuitamente, non siamo a questo livello di qualunquismo, però rinunciare a questi 18x4, faccia lei la somma, comunque quasi 80 euro, è un sacrificio enorme? Oppure? Ma guardi, per me non è un sacrificio enorme, ma parlo per me, il discorso è un altro. Il discorso è che per me, come per molti altri, diciamo, questo io lo considero una scuola, un'esperienza di vita. E quando fai una scuola, un'esperienza, ti metti a disposizione, perché come molti altri ero stanco di sentire le critiche da fuori, critiche che non servivano a niente, ho detto voglio andare a vedere per dare una mano e contribuire per il mio paese, per i miei cittadini. Per cui è un sacrificio dal punto di vista della famiglia, perché uscire 2-3 sere a settimana per partecipare alle commissioni, chiaramente lascia a casa la famiglia e i figli e lo sentono questo. Però le dico, sono contento di averlo fatto, e sono contento perché i consiglieri, tutti di maggioranza e di opposizione, hanno accettato questa cosa. Hanno accettato, e anche il sindaco ha rinunciato al suo stipendio per intero, in più allo stipendio come assessore. Perché fa sindaco e assessore. No, ma le cose si possono fare. Noi per il momento ci dobbiamo fermare qui, ma promettiamo di indagare ancora. Ringrazio Massimo De Manzoni, vice direttore di Libero, così come Giuseppe Greco. Ricordiamo, voi siete su Facebook, Noi Siamo Altro, con l'hashtag, questo simbolo che va anche molto su Twitter, ed è un tentativo, come dire, di protesta, di indignazione civile, che ad Agrigento ha risposto alle 1133 sedute consiliari. Salutiamo anche con grande affetto, lo attendiamo quando vuole a braccia aperte, Michele Maglia, che è presidente della commissione lavori pubblici urbanistica di Agrigento, e che ci aveva promesso di intervenire anche l'ultima volta alle 8:05 di codesta mattina, venerdì 5 febbraio, che poi è il 6 febbraio. Che giorno è oggi? 6 febbraio. 24 mattino. Eccoci qua, allora alle 8:47 minuti, saluto il sindaco di Verona, Flavio Tosi, della Lega. Buongiorno sindaco. Sì, buongiorno a voi. Abbiamo parlato finora delle grandi commissioni sedute, 1133 ad Agrigento. Come siete messi a commissioni consigliari a Verona? Si riuniscono per i gettoni o fanno qualcosa? No, beh, si riuniscono in maniera regolare, non per i gettoni. Si riuniscono quando serve, come anche il consiglio comunale, insomma, come dovrebbe essere, come dovrebbe funzionare. Senta sindaco, l'abbiamo chiamata perché allora, questa cosa del registro delle unioni civili, lei ha annunciato di volerlo fare a Verona, è un prima di spiegarci di cosa si tratta ha subito creato malumore nella Lega. Intanto, lei l'aveva avvisato Salvini, il suo segretario, oppure no? Non lo avvisato perché si tratta di un atto della mia amministrazione che ha valenza per la città di Verona, non ha implicazioni politiche né religiose, è un atto d'anagrafe che utilizzando una legge dello Stato vigente da più di 20 anni riconosce, quindi dà un'attestazione, che non significa matrimonio, non significa adozione, non significa nulla del genere, mm-hmm. un'attestazione che due persone vivono assieme, si vogliono bene, e questo ha la principale valenza e ha scopo di assistenza reciproca socio-sanitaria e patrimoniale, perché se uno va in ospedale per dire trovo sì. doveroso che possa ammesso che possa averne informazione. Per me non voglio dire, sarebbe una questione neanche da discutere più di tanto. Ha fatto un po' discutere nel partito perché Salvini dice non era certo la priorità dei sindaci questa. Ma guardi, io le priorità della mia città le conosco da, sono 8 anni che sono sindaco ormai, ed è 8 anni che vado avanti con le priorità, con le emergenze, con quello che serve alla città di Verona, e spero con il consenso dei cittadini veronesi. Il sindaco si occupa, come l'amministrazione, si occupa di tutti gli aspetti che riguardano la vita della comunità, non si occupa solo dell'emergenza, non si occupa solo dell'urgenza, si occupa di cercare di dare una mano alla sua comunità e di governarla al meglio. Anche questo fa parte, sì. è uno di questi aspetti. Ricordiamo che tra l'altro, non, per capire, non è questioni matrimoni, unioni di persone dello stesso sesso, sono le unioni civili, cioè le coppie non sposate, uomo e donna che convivono. Uomo e donna, o anche uomo, donna e donna, perché nel momento in cui è una coppia di fatto, non essendoci il dato del matrimonio, se fosse il matrimonio sarebbe un altro paio di maniche. Ah, quindi anche una coppia omosessuale? Beh, non c'è dubbio, la coppia di fatto è coppia di fatto, non essendo il regime del matrimonio, la coppia di fatto è coppia di fatto a prescindere. Cioè dovrebbero venire in comune a attestare che sono insieme da 2 anni, credo? Che sono insieme da 2 anni, oppure 1 anno se una delle due persone ha più di 70 anni, se hanno figli anche subito, e se hanno l'attestazione da un'altra città gli viene riprodotta immediatamente. Quindi lei in qualche modo però si può dire sdogana anche le unioni civili tra persone dello stesso sesso, che è un po' quello che vuol fare anche lei. Perché non sono matrimoni? Cioè, il matrimonio è un'altra norma che dipende dallo Stato, dalla Costituzione, e finché non si cambia la Costituzione il tema non si pone, e lo stesso dicasi per l'adozione. Qui si parla di coppia di fatto, riconoscere che due persone convivono da un certo periodo di tempo e quindi hanno un legame affettivo, e quindi hanno una serie di riconoscimenti che, ripeto, non c'entrano nulla con il matrimonio, ma sono di altro genere, che però sono quelli che si spiegano. Se non sbaglio non possono entrare nella graduatoria per le case comunali, oppure sì? Non sono riconosciuta famiglia da quel punto di vista, cioè abbiamo escluso in maniera esplicita le case popolari, ma per un motivo semplice, perché siccome le case popolari sono gran poche, ci sono moltissime richieste, in quel caso è doveroso dare la priorità alle coppie con figli, tant'è che per le case popolari la coppia con figli, sia essa sposata o non sposata, ha lo stesso diritto perché ha figli. Però mi scusi, che ha figli, cioè una coppia, il discriminante è il matrimonio o avere figli, perché una coppia di fatto può avere figli, e quindi in questo caso una coppia di fatto può entrare in... Una coppia di fatto, che sono uomo e donna, perché con i figli in Italia sì. sono solo uomo Beh, e donna. Oddio, come sa, ci sono anche famiglie con... Beh, ce ne saranno 2 in tutta Italia di coppie omosessuali con figli, sì, lo sa benissimo anche lei. No, 2 no, le si famiglie con... sulle dita di una mano, probabilmente, i casi. Ma no, quindi... no, guardi che credo che siano di più. Comunque, insomma... No, non sono di più. Ma non lo so, comunque insomma, coppie di fatto che hanno figli possono accedere a una casa, quindi... Sì, per la tutela dei figli. Per la tutela dei figli. E, vabbè, ma lei l'ha sentito Salvini, ha detto anche ieri è al sud a fare un tour, insomma non è rimasto molto contento, ecco, poi che... Ma io non è che fa 8 provvedimenti per ragioni di partito o per una matrice ideologica, io sono un sindaco, l'amministrazione ha un dovere di essere laica nelle scelte, e quindi io adotto un provvedimento che ritengo sia nell'interesse della mia comunità e a vantaggio delle famiglie, delle coppie, delle persone che compongono la mia comunità. E questa è la ratio di quel provvedimento, non è che devo chiedere al partito se adottarlo o meno. Però uno non dovrebbe fare delle cose all'interno, cioè lei si sente pienamente dentro la Lega? Ma guardi, io quando c'è stato il nuovo corso, dopo il cerchio magico di Bossi che si insediò Roberto Maroni, la linea fu, e io resto fedele a quello, che sui temi etici, su temi che hanno valenza familiare o comunque su questo tipo di problematiche, che c'è una sensibilità personale, si disse, si decise, e secondo me è correttissimo e doveroso, che ci fosse libertà di coscienza all'interno del partito. Quindi lei è rimasta Maroni. E guai su un partito da ordini di scuderia su questi temi, sarebbe profondamente sbagliato. Però lei dice, io sono rimasto alla linea Maroni, solo che hai cambiato il segretario, e come la mettiamo? Ma io sono coerente con me stesso, non è che se si cambia la segreteria allora si cambia anche opinione, e quello che si diceva prima poi non lo si dice dopo, se si resta coerente. Rimane coerente con quello che dice Maroni. Le chiedo questa perché oggi anche la stampa dice, si parla, si vocifera, per la verità di lei si dice da anni potrebbe uscire dalla Lega e che guarderebbe con attenzione al neopartito di Passera, Corrado Passera. Ma guardi, io sono in Lega da ormai sono 25 anni che dicono che esco dalla Lega, non so quanti anni, io lascio che dicano che esco dalla Lega, io resto in Lega, non mi pongo il problema. Resta nella Lega. L'ultima domanda, lei se, diciamo, appoggia ovviamente Zaia per la ricandidatura del Veneto, sostiene che la Lega dovrebbe correre da sola, perché? Da sola con liste civiche, con una serie di liste civiche a sostegno, perché è più coerente rispetto a quello che sta succedendo a livello nazionale. A livello nazionale la Lega e Fratelli d'Italia stanno all'opposizione, il resto se guardiamo l'NCD sta in maggioranza col centro-sinistra, Forza Italia finge di stare all'opposizione ma di fatto Berlusconi quando gli servono i voti a Renzi glieli porta. E allora rispetto a provvedimenti come lo svuota carceri, l'abolizione dell'atto di immigrazione clandestina, l'ultimo depenalizzazione colossale che stanno facendo adesso, alla fine è più opportuno avere una linea di coerenza e quindi dire la Lega più chi si ritiene parte del centrodestra ma non si riconosce nel modo di fare di quei partiti di centrodestra nazionale che non stanno nel centrodestra, non si sa neanche dove stiano in questo momento. Lega più liste civiche, questa sarebbe la formula. Va bene, intanto la ringrazio, grazie sindaco per essere stato con noi. Grazie a voi e buon lavoro, saluto gli ascoltatori. Grazie Flavio Tosi, sindaco di Verona della Lega. Che dire, noi chiudiamo questa settimana, oggi Ciao Italia non c'è ma lo recupereremo appunto da lunedì prossimo, e che è l'invito che facciamo sempre a tutti coloro che ci ascoltano dall'estero ci seguono con passione di scriverci 24mattino@radio24.it e noi vi chiameremo in onda, uno di voi ogni giorno, la 92esima settimana decisiva per la riforma elettorale e l'abolizione delle province volge al termine con i saluti di Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli in redazione e il nostro Carmelo Lauricella in regia. L'ottimismo ci porta a pensare che la 93esima settimana, che inizierà lunedì prossimo, sarà quella buona, sarà quella decisiva. Scriveteci, seguiteci anche su Twitter. Alino Milan è il mio profilo. Ah, ve lo dico già subito, domani sera non vedrò la partita della Juve e del Milan. Tanto il nostro campionato inizia la settimana prossima. Vado a teatro a vedere Leonardo Manera. Va bene? Ciao, ciao. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. 24 mattino.